Il problema è che per arrivare alla guerra nucleare totale servono dei passi, la cosiddetta escalation. La decisione di ieri di Putin, peraltro venuta nello stesso giorno in cui la Bielorussia, il suo alleato storico, teneva un referendum per uscire da una zona libera delle armi nucleari, che era messa in Costituzione, anche questo passo, appunto, come dicevo, aiuta questa escalation, la porta un po' più vicina. È certo che spero bene che non solo Putin, ma soprattutto gli operativi del suo esercito pensino bene prima di far partire una guerra nucleare che sarebbe catastrofica, ci dovremmo dimenticare l'umanità come l'abbiamo vissuta fino a oggi. È certamente una mossa, anche se vogliamo, di confronto, no? di portarsi su un piano negoziale più alto. Come abbiamo detto dall'inizio di tutta questa tragica situazione, l'unico modo per fermarsi è bloccare l'escalation, cioè non rispondere a minacce con minacce, e la minaccia nucleare è la più terribile che possa esistere. In questi anni si è lavorato molto, nei decenni passati, a trattati di non proliferazione. A che punto siamo? Siamo che il trattato di non proliferazione, che ebbe il merito negli anni 60-70 di bloccare appunto la diffusione di armi nucleari in tanti paesi, alcuni prevedevano sarebbero arrivati 50 paesi a essere dotati di arma nucleare, poi però non è funzionato per l'aspetto legato al disarmo. Il disarmo nucleare si è avuto per gli accordi bilaterali tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, accordi che però sempre più con più fatica si possono poi rinnovare. Il New Start è stato rinnovato per il rotto della cuffia fino al 2026. Il problema è che altri trattati storici, soprattutto quelli che proteggevano l'Europa, sono stati poi stracciati. Da un lato l'Iran Deal, l'accordo con l'Iran, ma quello è per armi, diciamo, in prospettiva, e dall'altro invece l'INF, il trattato sulle forze intermedie, quelle che impedivano di schierare appunto dei missili a medio raggio che potevano colpire l'Europa. Un trattato che è stato stracciato nel 2019 da Trump e dallo stesso Putin, e noi sottolineavamo questo pericolo che oggi purtroppo viviamo. La risposta che la società civile ha costruito e molti altri paesi poi hanno approvato è quella invece del trattato di proibizione delle armi nucleari, votato, firmato nel 2017, entrato in vigore proprio l'anno scorso, 2021 a gennaio. Noi, con anche la nostra campagna ICAN, che è la campagna appunto che ha creato questo trattato e che diciamo lavora per la società civile che vuole un disarmo nucleare vero, visto che ormai il trattato di non proliferazione non ce lo può garantire, diciamo una sola cosa: tutti i paesi devono smetterla prima di tutto di avere una dottrina, una strategia nucleare, aderire al trattato di proibizione delle armi nucleari ed eliminarci questa minaccia che sta sulle teste di tutti noi. L'abbiamo detto mille volte: o noi elimineremo le armi nucleari o prima o poi le armi nucleari elimineranno l'umanità, perché non esistono mani giuste, mani sicure per un'arma ingiusta come quella nucleare, che è un'arma genocida. L'altra notizia di ieri è che l'Europa, e l'Italia con lei, invierà armi in sostegno all'Ucraina. Voi come la commentate? È un problema, ci sembra essere tornati indietro di 30 anni, 40 anni rispetto a tutti i passi di controllo sulle forze di armamenti. L'abbiamo detto chiaramente e lo dice anche un trattato internazionale che tutta l'Europa ha firmato: non si devono mandare armi in contesti di guerra, perché le armi in contesti di guerra peggiorano la situazione, non la migliorano, non è mai controllabile, non siamo in un film in cui dai la pistola al buono e di colpo spara a tutti i cattivi. Questo è purtroppo un problema, così come un problema l'annuncio di nuove aumenti delle spese militari. Tra l'altro questo invio l'Europa per quasi 500 milioni, e anche qui fatemi fare una battuta, ci sono le persone che stanno raccogliendo i soldi per le popolazioni in Ucraina e stanno facendo donazioni, ma invece i produttori di armi vogliono i soldi, se li fanno comprare le armi. Ecco, anche questo dovrebbe farci capire molte cose. E poi il punto è che tutto questo consegna verrà fatta addirittura con un nuovo strumento che l'Europa si era appena adottata, si chiama European Peace Facility, che dal nome dovrebbe essere una cosa per la pace, e invece dall'inizio avevamo denunciato sarebbe stata un favorire l'invio di armamenti. Ecco, purtroppo la situazione in Ucraina dimostra drammaticamente che avevamo ragione, e dimostra drammaticamente che non si stanno rispettando quelle regole, quelle norme, quelle idee che avrebbero potuto bloccare il flusso degli armamenti. Ecco, l'Europa davvero è sempre più militarizzata, un'Europa che era partita come unione, come progetto di pace, e che sta diventando sempre di più un progetto di forza e di violenza. E a proposito di Europa militarizzata, ieri la Germania ha annunciato un importante piano di riarmo, anche questa è una notizia storica, giusto? Sì, è assolutamente in controtendenza rispetto a quello che la Germania ha fatto anche con l'accordo, insomma, un po' tacito di tutti, no? Per evitare che ci fossero dei fantasmi del passato di quando la Germania si fermava. Se davvero spenderanno 100 miliardi di euro, chiedo scusa, in un anno, più che raddoppieranno l'attuale spesa militare. Non si capisce perché. E fatemi dire anche una questione. Molti dicono si dispace in parabellum, continuano a farsi guidare da un detto latino di 2000 anni fa, ma negli ultimi anni le spese militari sono cresciute del 90%. Ci stavamo già preparando la guerra, quindi se si prepara la guerra avrai la guerra. E fatemi dire che non serve più spesa militare per bloccare una minaccia di uno come Putin, che ovviamente va su irrazionalità sue. Già oggi la NATO spende quasi 18 volte in più della Russia. Allora i punti sono due: qualcuno non sa fare di conto e non ha capito che già spendere 18 volte in più della Russia dovrebbe garantire una supremazia, oppure in realtà tutti questi soldi finiscono nelle tasche di chi ci lucra, chi ci fa i soldi, e che però non è efficiente, perché se per confrontare Putin dobbiamo spendere più che 18 volte di quello che fa lui, vuol dire che c'è una inefficienza estrema nella spesa militare. In ogni caso è proprio sbagliato il concetto.